Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Diciamo che io non ne ho che le conferme costanti che non ci sono più le mezze stagioni, non so se anche voi, ma avete visto come si fa a passare da delle temperature quasi estive fino a qualche giorno fa, davvero almeno a Milano 25-28 gradi, stamattina ce n'erano 11, infatti mi sentite, cos'è, il terzo sabato un po' così influenzata, bronchitica, che ci posso fare? Non essendoci più le mezze stagioni, uno non sa come vestirsi, passa dal caldo al freddo, poi queste sono le conseguenze, ma arriviamo subito a noi, a parte ritornare ogni volta sul fatto che effettivamente le cose stanno così, che le mezze stagioni ormai sono andate a farsi friggere, e anche nei fatti, nei costumi, come stanno le cose, che cosa pensate? Come sempre, questo è il bilancio della settimana con me, con voi e con l'ospite che tra poco saluterò, per ritornare sui fatti di questi giorni, per fare i vostri commenti, le vostre riflessioni, per avere un confronto costante, diretto. Quindi qual è il fatto, la notizia che vi ha colpito di più e sulla quale volete ritornare? Il numero verde, ve lo ricordo da subito così ve lo potete appuntare, 800 24 00 24, numero verde quindi gratuito, 800 24 00 24. Ma come sempre mi serve il sabato un opinionista estemporaneo. E oggi, signore e signori, ho invitato... Aldo Cazzullo. Buongiorno Aldo. Aldo Cazzullo è inviato del Corriere della Sera, firma notissima ovviamente del Corriere, e poi ha seguito un sacco di eventi, di vicende italiane ma anche di eventi internazionali. Faccio un breve elenco: ha seguito le elezioni di Bush, di Obama, fatto veramente epocale, di Erdogan in Turchia, Zapatero, Sarkozy, le Olimpiadi di Atene e Pechino, i mondiali di calcio in Giappone, insomma l'elenco è lungo, ma soprattutto oggi è qui, è in collegamento perché ha scritto questo, l'ultimo libro suo per Mondadori, scusate un po'. La voce è L'Italia dei Noantri, ho detto bene? Sì. Letto così, dei Noantri, come siamo diventati tutti meridionali. Allora, il dubbio per questo sottotitolo nei confronti di Aldo Cazzullo può essere questo: come siamo diventati tutti meridionali, nel senso che alla fine in Italia siamo tutti oriundi, oppure è, diciamo, un commento, un'osservazione in linea leghista, o siamo diventati tutti simpatizzanti? Che cosa intendevi tu, Aldo? Intanto Noantri per me è davvero la parola chiave dell'Italia di oggi. Noantri, il quartiere, il campanile, la contrada, la fazione, il club, il clan, la corporazione, la curva da stadio, giù sino a Cosa Nostra, no? Anche la mafia è una cosa da Noantri. Ho scelto di dire il romanesco perché sono convinto che Roma diventi sempre più centrale, in Italia in generale ci sia un'egemonia di Roma e del sud, però la parola Noantri c'è anche negli altri dialetti. In Veneto si dice, salvo un paio di foresti, siamo tutti dei Noaltri, e noi altri esiste anche in piemontese, che è la mia, per usare il dialetto della mia terra. Io sono convinto che non esistano più le due Italie, non c'è un nord virtuoso e un sud vizioso. Forse al nord si evade il fisco meno che al sud, forse non si suona clacson nel traffico, forse non esiste l'economia sommersa, non si lavora in nero, il posto fisso magari pubblico fa meno gola. Sono domande forse retoriche? La giustizia non è lenta come al sud, forse non si accettano al nord i denari della mafia, della camorra, della 'ndrangheta. Cioè, in questo senso io faccio un ragionamento antileghista, anzi, secondo me la Lega è proprio il partito dei Noantri, in cui la cosa importante è la fedeltà al capo e l'amicizia. La Lega nasce come un gruppo di amici varesotti e si è espansa con questo criterio. In Emilia la Lega ormai supera il 10%, ed è nata attorno al gruppo di amici di Bobo Marone che suonavano il soul con lui al Festival di Porretta Terme. E cosa c'è di più mediterraneo, nel senso geografico del termine, di Bossi, che ha festeggiato per 3 volte una laurea che non ha mai preso? Senti Aldo, e invece se tu dovessi dire perché secondo te non ci sono più le mezze stagioni, magari è molto attinente anche al tuo libro, non lo so, tu hai detto che non ci sono più due Italie. Assolutamente, soltanto c'è l'autorevole conferma climatica che hai segnalato tu prima, ma ad esempio io penso sempre al degrado dei rapporti umani, signora mia, tanto devo citare la famosa frase. Beh, insomma, la mia impressione è che l'educazione sia ormai considerata una forma di debolezza, la cortesia come un orpello che non usa più, si rivendicano in pubblico le cose che si facevano una volta di nascosto in privato. Guarda, io ho scelto due frasi per introdurre il libro, l'esergo si dice in gergo, una frase di Seneca che dice parlo della virtù, non di me, e quando condanno i vizi, condanno i miei vizi, come dire, mi ci metto di mezzo anch'io, non penso che gli italiani siano gli altri, gli italiani certo. Sono io per primo. L'altra frase è una frase di Fabrizio Corona, che è un personaggio centrale nell'Italia di oggi, che al processo dice ai giudici moralmente mi dovreste dare l'ergastolo, ma penalmente non potete farmi nulla. Ecco, questo rivendicare in pubblico ciò che si faceva prima di nascosto in privato, questo degrado dei rapporti umani è parente del fatto che non esistono più. Purtroppo, secondo me, la mezza stagione. E tra l'altro c'era un commento interessante in questi giorni sul Corriere della Sera, vediamo se lo ritrovo qui tra le mie carte, di Giovanni Belardelli, che parlava appunto dell'uso della parolaccia e del turpiloquio, che ormai se non si usa in politica, in televisione, ma anche nei mezzi di comunicazione, non è trendy, no? Se non si è trendy se non si usa il turpiloquio, e ovviamente dicevi tu la mancanza di educazione, l'ostentare certe cose che forse prima era meglio non per ipocrisia ma per un po' di contegno, decoro, tenere diciamo tra ambiti privati. Ma vedrai che alla fine finiremo anche per rivalutare l'ipocrisia. Io apro il libro raccontando del Piemonte degli anni 70 in cui sono cresciuto, che era ad Alba, era un posto insomma un po' grigio, un po' ipocrita, diciamolo pure, però era un posto sobrio, serio, non ci si dava tutto del tu, i maschi non si baciavano tra di loro, non si cenava, non si pranzava per strada. Ora Alba pare Taormina, si vive di turismo, adesso c'è la fiera i tartufi poi insomma di Alba. Fossero di Alba, tutti i tartufi venduti come tali, ad Alba i tartufi dovrebbero crescere sugli alberi come le ciliegie anziché nascondersi nelle viscere della terra. Poi quando c'è stata questa grande truffa del Grenzane e Cavour, due nomi sacri, il concorso, Grenzane sì. È il più bel castello delle Langhe, Cavour padre della patria piemontese, che delusione italiana. Beh, insomma, noi piemontesi non possiamo più avere la pretesa di insegnare alcunché al resto degli italiani. Siamo italiani come tutti gli altri. Aldo, io mi scuso già in anticipo con te, spero tu non mi annoveri tra i maleducati o quelli insomma che ostentano questa relazione un po' degradata. Io do del tu in genere, a parte a te che sei un collega, ma anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Tra giornalisti è regola darsi del tu, e non è che io trovi niente di sconveniente in questo, così come quando incontro un amico maschio spesso ci baciamo sulle guance, mi ci metto di mezzo io, non è che denuncio. Puoi baciarlo anche sulla bocca. Racconto come cosa siamo diventati nel bene e nel male, ci sono anche aspetti positivi in questa meridionalizzazione del paese, ci sono aspetti che non sono né positivi né negativi. Pensa al culto di Padre Pio non è più un santo del sud, di Pietrelcina, del Gargano, è il patrono ombra di tutta Italia, no? Allora, io ricordo il numero verde 800 24 0024 per commentare i fatti della settimana. Adesso riprenderemo con Aldo Cazzullo a farlo, ma ci vuole anche, come sempre, un punto di vista extraterrestre. Riflessioni da Marte. Se non vi dispiace, qui da Marte vorrei iniziare oggi, sperando ovviamente di non annoiarvi, vorrei iniziare, dicevo, affrontando il tema dell'import-export. Qualcuno forse avrà appreso che in questi giorni in Iran, a seguito delle manifestazioni di piazza dei progressisti, no, contro il regime dopo le elezioni presidenziali, sono state emesse in Iran diverse condanne a morte per i manifestanti e che molti ragazzi e ragazze rinchiusi nelle particolarmente ospitali carceri iraniane sono stati in questi giorni torturati e brutalmente violentati. Ebbene, evidentemente nell'attività di import-export, esportazione di democrazia, importazione di petrolio da parte della comunità occidentale, l'Iran non riscuote esattamente un emergenziale interesse, così si può dire. Si sa del resto che era Saddam Hussein l'unico vero dittatore sanguinario del globo terracqueo, mentre Ahmadinejad, per esempio, è una deliziosa mammoletta. E poi, ormai universalmente risaputo che era l'Iraq sì, ad avere armi di distruzione di massa, mentre in Iran si sa che usano la cerbottana. Non si chiede, del resto certamente, di devastare l'Iran come si è fatto per esempio con l'Iraq, ma la comunità internazionale, di fronte alle brutali torture, alle condanne a morte di chi si ribella, potrebbe fare forse qualcosa di più che non mormorare semplicemente «siamo veramente indignati». Ah, è pur vero poi che ognuno ha già i guai a casa propria. Per esempio, in Italia si è alle prese con l'annosa questione dei diritti gay e della discriminazione nei loro confronti. È appena stata affossata una legge in questo senso. Ma diciamocelo chiaro, ma che cosa vogliono questi gay? Non vorranno mica queste donne, questi uomini, avere il diritto e la libertà di darsi la mano per strada o di darsi dei bacini senza che nessuno rompa loro le ossa? E che razza di pretese hanno mai? Di comportarsi magari e di amarsi come i normali, loro che normali non sono. Con quelle antennine verdi, le avete viste sulle loro teste queste antennine verdi? E poi quelle squame strane sulla pelle, quelle unghie retrattili dei piedi, quegli occhi infrarossi, roba insomma così aliena. E oserei dire così marziana che non si è mai vista, nemmeno qui su Marte. E per chiudere, l'ex ministro dell'interno britannico David Blunkett, ex ministro britannico, ha promesso che alla sua morte, attenzione, donerà il cervello alla ricerca sulla demenza senile. Ma se lo si suggerisse così come un'opera umanitaria, questa cosa di donare il cervello per studiarlo, per sapere cosa caspita, come caspita funzionano i loro neuroni anche a un folto drappello di italici politici? Cazzullo, prima di sentire le telefonate al numero verde 800 24 0024, se stiamo sulla politica per esempio, poi vorrei fare la solita sintesi minimissima di alcune notizie della settimana, ma è possibile che ci appaia a volte molto più di sinistra Gianfranco Fini per esempio che Paola Binetti? Ma guarda, io non sono affatto convinto del fatto che, anche se hai colto un punto giusto, non a caso il giornale definiva Fini compagno Fini. Io non credo affatto che Fini sia diventato di sinistra, Fini rappresenta semplicemente il progetto, il sogno forse di una destra liberale, moderna, una destra delle regole, della responsabilità, del merito, di cui l'Italia secondo me avrebbe bisogno come dell'aria che respiriamo. Quindi un po' sulla linea di Francia, Germania, così in questo senso. Per esempio, facciamo l'esempio della Germania. Tutti i giornali italiani hanno giustamente titolato in Germania vince il centrodestra, ove la destra di questo centrodestra è rappresentata dai liberali, cui leader Guido Westerwelle è un omosessuale dichiarato e ha commentato la vittoria dicendo ci batteremo con le unghie e con i denti per la difesa dei diritti civili. Ora non è obbligatorio che tutti la pensino in quel modo, prendo atto che la destra italiana, quella prevalente, è ancora molto diversa, molto lontana da questa destra per il momento minoritaria che Fini e i suoi uomini stanno cercando di costruire. Senti, non ti sembra strano, Aldo, che in Finlandia, proprio in questi giorni, il diritto alla banda larga è stato definito un diritto inalienabile di tutti e ancora qui si fanno i problemi sui gay, si possono darsi la mano a baciarsi, se... come mai? Siamo veramente l'ultimo paese occidentale a essere omofobico e devo dire che mi ha deluso la dichiarazione di Buttiglione, che ha detto insomma, spaccare un osso a un omosessuale non è più grave che spaccarlo a un padre di famiglia. Sì. Frase di per sé inaccettibile. Il problema è che le aggressioni di questi giorni sono fatte contro persone proprio perché sono omosessuali. Quindi in qualche modo è giusto, secondo me, che ci sia un aggravante, perché aggredisce qualcuno non per prendere il portafoglio, cosa esecrabile, certo, condannabile, da condannare, ma per il semplice fatto che lui è così. Non perché ha qualcosa che tu vuoi prendergli, ma perché lui è così, perché è diverso da te. Questa è una logica barbara, inaccettabile, ed è giusto punirla con particolare severità. Allora, prima della viabilità e prima di sentire i primi ascoltatori al numero verde, dico, faccio sempre questo sforzo di sintesi, ma un miliardesimo, un bilionesimo delle notizie che ci sono nel mondo. Comunque, di questa settimana è la storia del papello, questo documento di 12 richieste che riguarderebbe le trattative tra Stato e mafia negli anni 90 per fermare le strage, che è stato consegnato almeno in fotocopia finora da Massimo Ciancimino agli inquirenti, figlio dell'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, anche lui condannato in primo grado per concorso esterno mafioso. Poi Berlusconi, che annuncia in questi giorni la riforma della giustizia e crea preoccupazione naturalmente tra i magistrati, l'ANM, CSM, e poi c'è Fini che interviene e dice ci vogliono le riforme condivise. Sempre Berlusconi che annuncia che partirà a dicembre, partiranno i lavori per il ponte di Messina, e poi a proposito del caso Bindi della scorsa settimana si è scusato dicendo mi spiace per la Bindi, era una battuta di largo consumo, anche se lei non l'ha presa bene neanche questa cosa. E poi il caso Mesiano, no, del del giudice del Lodo Mondadori che ha condannato a Fininvest al maxi risarcimento nei confronti della CIR di De Benedetti, che è stato ripreso da Canale 5 in un filmato spiato, no? E poi con tutte le polemiche che ne sono sorte, anche l'ANM che si è infuriata. La legge di cui abbiamo parlato, appena parlato, affossata sull'omofobia in Parlamento. A questo proposito vorrei consigliarvi di andare a vedere Viola di Mare, un film che si preannuncia molto bello e che era ieri al Festival del Cinema di Roma, che è uscito in 100 sale italiane, e narra la storia di una regista, Donatella Maiorca, la storia d'amore tra due donne, pensate, nella Sicilia di fine 800, immaginiamoci. Poi Confindustria, che parla di segnali di ripresa, dice nel 2010 il PIL dovrebbe essere oltre l'1%. La FAO, che denuncia che la fame nel mondo colpisce ormai più di 1 miliardo di persone, non era così consistente il numero dal 1970. In Afghanistan è morto un altro paraitaliano per un incidente stradale, e il Times, intanto, il quotidiano inglese, che insiste che l'Italia paga i talebani per tenere, insomma, la situazione nei confronti italiani più tranquilla, e Frattini, ministro degli esteri, che dice sono accuse false e offensive. La corsa alla leadership nel PD, poi Aldo Cazzullo magari ci dirà cosa ne pensa. L'ora di religione islamica, che è una nuova proposta dei Finiani, è molto contrastata dalla Lega. I Finiani dicono è per evitare le scuole coraniche. Via libera la banca del Mezzogiorno, da Tremonti. France Telecom, un altro suicidio, il 25esimo, chissà se aspetteremo il 164esimo per sapere come mai succedono tutti questi suicidi lì. Poi le temperature in Abruzzo, purtroppo, che scendono sempre più, e ci sono ancora circa 5.000 sfollati dentro le tende. La morte del ciclista Van der Broek, il suicidio di queste ore, la notizia del patrigno di Valentino Rossi. Questa cosa abbastanza simpatica del sorpasso di Hillary Clinton nella popolarità, nel consenso negli Stati Uniti rispetto a Obama, lei segretaria di Stato, quindi ministra degli esteri, il 62% dei consensi contro il 56% di Obama. Non ci sono più le mezze stagioni. Eccoci di nuovo insieme, Roberta Giordano con voi sino alle 15 per ritornare insieme e confrontarci sulle notizie della settimana. Mio opinionista estemporaneo di oggi è Aldo Cazzullo, inviato del Corriere della Sera, e ci raccontava un po' del suo ultimo libro, L'Italia dei Noantri, come siamo diventati tutti meridionali. Allora, tra poco cominciamo appunto a sentire le vostre telefonate al numero verde 800 24 0024, ma tu, Aldo, hai sentito di questa scoperta dell'acqua calda? La scoperta dell'acqua calda. Cioè proprio la scoperta dell'acqua calda e del sapone, cioè è una ricerca UNICEF che è venuta fuori in questi giorni, secondo la quale si potrebbero salvare al mondo milioni di bambini, per esempio da queste infezioni cosiddette diarroiche, respiratorie, eccetera, se potessero essere in grado di lavarsi le mani con acqua calda e sapone. Pensa tu, no? Bisognava arrivarci adesso. E poi un'altra ricerca invece, non mi ricordo se... No, è americana questa ricerca. Solo 3 uomini su 10 usano il sapone quando vanno in toilette, 32% degli uomini contro il 64% delle donne. Allora non è un luogo comune che gli uomini, insomma, che dice? Ricordo un pezzo sulla prima pagina del Wall Street Journal che accusava invece gli europei di avere questa disattenzione. Però ti confesso che mi ha colpito di più la prima notizia, anche perché vedi, siamo passati da un momento in cui sì, si dava poco, ma qualcosa si dava all'Africa, e finiva quasi tutto nelle mani dei rapaci satrapi africani che poi portavano direttamente il tutto nelle banche svizzere e comunque nei paradisi fiscali. Si è detto giustamente no, non cerchiamo di evitare tutto questo, non arricchiamo delle famiglie, cerchiamo di salvare i bambini, di far progredire l'economia e lo sviluppo civile di questi paesi, e però poi abbiamo ridotto drasticamente gli aiuti, a ogni G8 si fanno promesse e poi non vengono mantenute, e anche questo, il fatto che non ci sia l'acqua calda per lavare le mani ai bambini, è un segnale del fatto che c'è qualcosa che non funziona. Allora cominciamo con Sergio da Cremona, primo ascoltatore. Sergio, pronto? Eccoci qua. Ecco, io volevo porre una domanda al giornalista Cazzullo, che sì, io apprezzo moltissimo. Il quesito è questo: e secondo il giornalista Cazzullo, la premiazione con il Nobel a Obama l'ha danneggiato o l'ha aiutato in questo particolare momento, stante la situazione dell'Afghanistan e dell'aumento delle truppe in Afghanistan. Sergio, è una domanda intelligente, anche se ti devo dire che staremo sulle notizie di questa settimana, mentre quella del Nobel è della scorsa settimana. Facciamo un'eccezione, però ricordiamoci appunto di stare sulla stretta attualità, visto che ci sono ogni sabato con voi a fare un po' il bilancio della settimana appena trascorsa. Aldo, cosa ne pensi? Qui, a proposito della popolarità, Hillary è balzata, però mi sembra che insomma sia una cosa positiva, per al di là di come la si pensi, no, per Obama. Intanto ringrazio il signor Sergio per le sue parole, che mi fanno molto piacere. La notizia questa settimana è curiosa, cioè Hillary, che è sempre stata forse più stimata che non amata dagli americani, il fatto che abbia superato Obama forse è più indicativo delle difficoltà del presidente che non dei successi del segretario di Stato. Io credo che, per rispondere alla domanda del signor Sergio, che in effetti il premio Nobel in questo momento procuri a Obama più imbarazzi che non soddisfazioni. L'idea che il proprio presidente sia così molto amato all'estero, in particolare in Europa, già lo rende sospetto all'America profonda, che non ha del tutto digerito la straordinaria novità epocale, come la definivi tu, Roberta, dell'elezione di un presidente nero. È anche vero che dopo lo smacco delle Olimpiadi assegnate a Rio con Chicago, la città di Obama, che Obama aveva sponsorizzato addirittura all'ultimo posto tra le quattro finaliste, beh, in qualche modo il prestigio internazionale di Obama viene rafforzato da questo premio. È evidente che ora si tratterà di passare all'azione, di dimostrare che questo straordinario fenomeno mediatico di Obama poi sa produrre anche dei risultati concreti. Certo, a proposito di Chicago, insomma, forse avrebbe preteso troppo con tutti questi successi, anche le Olimpiadi lì, diciamo che si può accontentare per il momento. Diamo... E poi è significativo, sì, perdono solo un secondo, che mentre negli anni 60 le Olimpiadi andavano nei paesi emergenti dell'ora, Tokyo 64, Roma 60, Italia, Giappone, le potenze sconfitte dalla guerra mondiale, che tornavano nel consesso civile, adesso vanno giustamente ai nuovi paesi emergenti, alla Cina e adesso al Brasile. E sentiamo Pietro da Roma, sempre il numero verde 800 24 0024. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie Pietro. Io vorrei fare due domande. La prima riguarda quanto il Times scrive sulle nostre truppe in Afghanistan che comprerebbero la loro incolumità dai talebani. Lo trovo veramente schifoso questo atteggiamento, non ci credo, è impensabile. Saremmo veramente degli abietti se fosse così, non ci voglio credere. E poi ecco, vorrei un parere su questo da entrambi, e vorrei dare un suggerimento sull'argomento del giorno: perché non fate un sondaggio breve, ma magari con quelli che chiamano? Grazie a Pietro, anche se il sondaggio ce l'abbiamo già tutti i giorni, la mattina. Però il sondaggio che faccio tra di voi è: qual è la notizia che vi ha colpito di più? E direi di lasciare spazio alle vostre opinioni, magari invece di dire sì o no. Difatti ce ne sono tanti. Parlavo prima appunto della questione Fini-Binetti. Qualcuno pensa, a volte si sono battute, no? Come faceva anche il giornale, il compagno Fini e Binetti, che sapete che si vorrebbe espellere o meno dal PD. Adesso devono decidere, sono anche in una fase piuttosto complessa e delicata, che è quella in attesa delle primarie del 25 ottobre, che decideranno chi sarà il leader del PD. Comunque, allora, tu cosa ne pensi, Aldo? Come diceva Pietro, insomma, ti sembra una cosa credibile, possibilmente fondata, o soltanto un'accusa volgare questa del... No, io non credo che sia una cosa fondata. Tra l'altro è molto sgradevole leggere queste cose all'indomani del punto della morte, come tu giustamente hai ricordato, di questo soldato siciliano che è morto nell'incidente, a bordo del suo lince che si è rovesciato, e poi quando abbiamo ancora nel cuore il dolore per i 6 para uccisi a Kabul. Che ci siano dei contatti tra i corpi di spedizione, a cominciare da quello italiano, e i guerriglieri afghani, questo mi sembra abbastanza normale. Si fa, nelle cose che si faccia lo fanno sicuramente anche gli altri contingenti. Che ci sia stato un pagamento di denaro, il governo lo esclude, e ovviamente io credo a quello che dice il governo. Che ci sia un problema sul ruolo della missione in Afghanistan è altrettanto vero. Cioè, è giusto smentire, è giusto anche magari querelare il Times, però il problema non è risolto da questo. È evidente che in Afghanistan si sta combattendo una guerra, e noi stiamo cercando di presidiare un territorio ostile, non credo da parte della popolazione che invece a volte addirittura ha avvertito gli italiani sul pericolo incombente, sugli agguati, ma da parte a causa della presenza di forte resistenze, beh, si tratta di ridefinire una strategia e di capire qual è l'obiettivo. Se l'obiettivo è una guerra a oltranza fino alla scomparsa dell'ultimo talebano, credo difficilmente sarà raggiunto. Se l'obiettivo è pacificare il paese e concentrarsi sulla caccia ai terroristi, sulla frontiera molto permeabile tra Afghanistan e Pakistan, beh, allora è tempo che anche l'Italia dia il suo contributo perché si vada in questa direzione. Cioè dici un po' uscire dall'idea del peacekeeping, del mantenere la pace e stare sul fronte in modo ufficiale? Cioè... Ci sono due linee che si confrontano in America, quella di mandare più soldati per riprendere il controllo dell'intero paese, oppure quella che alla fine mi pare sarà quella scelta da Obama e dalla Clinton, di concentrarsi nella regione al confine tra Pakistan, altro paese che dà parecchi problemi, parecchie preoccupazioni, e l'Afghanistan, al fine di cercare di non trovare questa ormai inafferrabile Bin Laden, ma di ridurre a mal partito le cellule terroristiche che si nascondono proprio lì, che fanno un proprio comodo in una terra di fatto di nessuno. Allora, prima di questa piccola pausa, vi ricordo ancora il numero verde 800 24 00 24 per intervenire sulle notizie della settimana. Voglio solo sentire la notizia di Marcello da Roma e poi ci sentiamo dopo. Marcello. Sì, salve. Io volevo intervenire a proposito degli omosessuali. Sì. Io sono una persona tollerante, liberale, non sono cattolico, non sono religioso, però mi sembra strano che vengano fatte leggi apposta quando si cerca di non ghettizzare. Cioè, siamo tutti uguali davanti alla legge, per cui non ci dovrebbero essere leggi apposta. A te sembra, Marcello, che siamo tutti uguali? Dovremmo essere tutti uguali, e la legge questo deve dire e questo deve rafforzare. Se si fanno leggi apposta per alcune categorie, oggi gli omosessuali, domani le donne o i neri o quello che è, si istituisce, si scrive. Tutte le categorie peggiori, insomma. Non ci sono più le mezze stagioni. Siamo sempre qui con le tantissime telefonate che stanno arrivando e vi ringrazio, Guido Scotti che non so con quante mani le sta ricevendo, con quale capacità che le sta inviando le vostre vive voci. Roberta Giordano è sempre con voi, Aldo Cazzullo, inviato del Corriere della Sera, è sempre in collegamento, ha appena scritto l'Italia dei Noantri, come siamo diventati tutti meridionali. Tantissimi gli argomenti, quindi vediamo di stare un pochino stringati, anche se mi dà un po' di ansia questa cosa, vorrei lasciarvi molto più spazio, ma sono veramente tante le telefonate. Marcello, eravamo con te, stavi dicendo che non c'è bisogno di leggi speciali per gli omosessuali, se no tra poco anche per le donne, per i neri, insomma le categorie peggiori. Già esiste, perché per le donne si è fatta una legge apposta per la violenza sessuale, per le prostitute si fa una legge sulle prostitute, mentre in realtà esiste già il rapimento, esiste lo sfruttamento, esiste già la violenza. Sti uomini, cioè... però Marcello, lo vedi che poi alla fine le leggi sono fatte tutte un po' per difendere da un certo tipologia di uomini e gli omosessuali, che mi pare che siano stati picchiati da donne, e le donne che subiscono violenza non dalle donne ma degli uomini, e sì. Il problema è che il crimine va punito sempre e non si può fare una legge apposta per qualcuno, per qualche crimine, né nel bene né nel male, insomma, né dare vantaggi né dare aggravanti, ecco. Non ti sembra che ci sia però un aggravante, che come diceva prima Aldo Cazzullo, sono molto mirate queste aggressioni, soprattutto ultimamente, che la discriminazione da decenni e decenni vige in Italia come altrove, sai che c'è anche la condanna a morte in tanti paesi ancora nel mondo per le persone omosessuali. Ma infatti io condanno ad esempio leggi apposite che condannano gli omosessuali, assolutamente, come per esempio c'è in Iran o altri paesi, ma anche quelli che li salvaguardano. Dall'altra parte, una legge è allo stesso modo una ghettizzazione, e con l'andare del tempo si ghettizzano, si creano delle categorie sociali che hanno privilegi o svantaggi o vantaggi secondo del caso. È un po' la stessa cosa che succede faccio questo parallelo, mi permetto, per la guida in auto, nel senso, adesso si tende più a dire quello beveva, quello si era fatto una canna, quello andava veloce, quell'altro rispondeva al cellulare, ma pensiamo a mandare in galera chi mette sotto qualcuno prima di fare tutte queste... Beh, è anche importante capire il motivo, se uno è perché, non so, è stato accecato improvvisamente dal sole, da qualcosa che è passato sul finestrino, rispetto al fatto di essersi beso, bevuto due bicchieri. Parliamo sempre di motivi colposi, ovvio, se è un motivo di, diciamo, una persona innocente, però il fatto di dire però tu non puoi bere perché poi guidi, tu non puoi fare, tu questa fai parte di queste categorie, stai facendo per questo motivo, per questa ragione, mi sembra un po' voler andare troppo oltre. Cominciamo a pulire i crimini, poi vediamo. Va bene Marcello, ti ringrazio, e questa è l'opinione di Marcello. Sentiamo invece quella, e su quale argomento, di Renato da Roma. Anche Renato. Buongiorno, sono Renato Pascariello, signora Giordano. Volevo dire una cosa. Ti prego, non mi chiamare però, signora. Roberta. Buongiorno, buon lavoro. Sì, grazie. Volevo semplicemente dire questo. Siamo una bella banca del mezzogiorno del mondo, altro che dell'Italia meridionale. C'è una parte del mondo che è mezzogiorno e talvolta anche mezzanotte. Mm. Per quanto riguarda l'Italia si può fare una cosa interessante, due cose. Una importante istituzione economica e culturale, o meglio culturale ed economica, che recuperi tutto il patrimonio, diciamo, italiano, patrimonio ambientale, creando migliaia e migliaia di posti di lavoro e riempia, diciamo così, di felicità le persone che non hanno lavoro e possibilmente mettiamo in questi luoghi delle bellissime opere d'arte contemporanee in modo da far felice chi decide di venire a vedere questo paese. Renato, grazie, un po' utopistico Renato con le sue proposte, però insomma chi debba ascoltare ascolti. E poi Luca da Trento, sempre al numero verde 800 24 0024. Luca? Pronto? Luca, tu sei su un trattore? No, non riesco, sono in macchina, non riesco a trovare una piazzola per fermarmi, però spero che ci senta abbastanza. Sì, è l'importante che tu abbia l'auricolare, il viva voce. Sì, sì. Infatti, sono in viva voce. Benissimo. Il mio argomento riguardava l'attentato fallito alla caserma di Milano, via Leiener, sempre ricollegandosi all'Italia dei Noantri, perché il problema, che le perplessità, meglio, che mi interessavano erano due. Una prima riguarda il fatto di capire come sia possibile che prima ancora che qualche certezza processuale sia uscita, le verità si alternino fra i due opposti. Da un lato l'attentatore parrebbe un povero diavolo per le modalità, il modo in cui l'attentato è stato portato a termine, è stato abortito, farebbe un povero pellegrino che si è trovato lì per caso, e quindi i giornali o i mezzi di comunicazione hanno parlato di improvvisazione, eccetera. Dall'altro lato però gli stessi mezzi di comunicazione, in momenti diversi, o altri giornali negli stessi tempi, parlano di 40 kg di esplosivo sequestrate a ipotetici complici, parlano di conoscenza con persone dell'entourage. Sì, Luca, all'inizio sembrava infatti che potesse essere così un disperato isolato, poi le indagini stanno facendo emergere degli elementi, diciamo, un po' più inquietanti, che relativi a qualcosa di più organizzato, ecco, di più sistematico, organico. Aldo, tu che cosa hai pensato di questa cosa? Grazie Luca intanto. Ma ho pensato che noi tendiamo un po' a volte a nascondere la testa sotto la sabbia, pensiamo di essere invulnerabili e noi siamo l'unico, poi quando si parla di questi argomenti viene fuori la vecchia scaramanzia, lo stellone, siamo nel corno, che è un atteggiamento ridicolo, che non serve a tenere lontano il pericolo, anzi serve solo a esorcizzarlo e appunto semmai a distrarsi. L'Italia è il solo grande paese che abbia partecipato sia alla missione in Iraq che a quella in Afghanistan a non aver avuto ancora un attentato. È successo in Inghilterra, è successo in Spagna, bisogna stare molto attenti, e non a caso appunto tu facevi giustamente notare come in un primo tempo tutti hanno accreditato l'ipotesi matto, isolato, vuole suicidarsi, quando in realtà esiste un grave, un serio pericolo, come dimostrano anche i continui attacchi della nostra contingente in Afghanistan, e quindi serve ovviamente non evitare l'allarmismo ma anche vigilare, perché poi il problema dei collegamenti tra l'immigrazione islamica e il terrorismo islamico esiste, perché ci sono delle reti che cercano di fare dei proseliti nelle zone appunto di disagio, di mancanza di integrazione. In questo senso la proposta di istituire accanto, non al posto di accanto, allora di insegnamento della religione cattolica, sì, è un'ora di facoltativa per i musulmani, ovviamente non si tratta di imporre, no, di convertire i nostri ragazzi all'Islam, si tratta di dare la possibilità ai musulmani, anziché andare alla madrassa a sentire magari un imam che l'incita all'odio verso di noi, a mandare un insegnante, quindi in qualche modo indicato dalla comunità islamica ma conosciuto dallo Stato, che spiega che cos'è il Corano a questi ragazzi. Io trovo un'idea ottima, che viene respinta non perché l'idea, non perché si critichi l'idea, ma perché si fa riferimento a questa pancia ideologica, a questa paura che abbiamo, questo senso di estraneità, oddio, rispetto al diverso, che viene fuori anche dalla telefonata del signor Marcello, che è una persona sicuramente educata, una persona che legge, che però fa un ragionamento che a mio modo di vedere è sbagliato. E diceva che non ci vuole una legge ad hoc per gay. La legge non, quel progetto di legge non è che punisce più severamente chi picchia un omosessuale, ma punisce più severamente chi picchia una persona perché quella persona è omosessuale. E non è purtroppo un'ipotesi teorica, succede tutti i giorni. Ieri sul metro a Napoli un insegnante picchiato, ieri stanotte a Roma quattro ragazzi seguiti da energumeni con delle mazze da baseball, e non per portargli via il portafoglio, perché, certo, perché sono una cosa diversa da chi aggredisce. Beh, questo è inaccettabile, va punito più severamente. Giuseppe da Milano, sempre il numero verde 800 24 00 24. Sentiamo qual è la notizia di Giuseppe. Eccoci. Buongiorno, buongiorno, grazie. Grazie a te, Giuseppe. Niente, la sottolineatura mi sembra un po' questa che volevo fare, che queste leggi, tipo quella sull'omofobia, che vengono proposte, mi sembrano dei tentativi di attirare voti su questo o quello schieramento. Perché deve essere talmente sottinteso che un certo questo tipo di violenza non deve essere neanche immaginato? E io che so poco di problemi legali, visto che faccio il medico di mestiere, ci sono le aggravanti per i futili motivi. Quindi, come dire, quando una cosa di questo genere dovesse avvenire, o avviene purtroppo sempre più spesso, il giudice non deve far altro che applicare quegli spazi che già che la legge prevede e che devono appunto sottolineare che questa cosa deve essere punita anche peggio appunto con queste aggravanti, perché colpisce delle persone che neppur lontanamente noi dovremmo discriminare. Quindi deve essere talmente sottinteso che non ci vuole una legge ad hoc. No, sarebbe bello, ma evidentemente è necessaria invece una legge ad hoc, Giuseppe, se continuano questi reati e spesso la passano liscia, come anche per carità spesso nei casi di stupro. Insomma, diciamo che in Italia forse a volte c'è un'applicazione così, a volte non so bene neanche che termine usare, diciamo, per non essere fraintesa, però a parte la certezza della pena, no? A proposito di riforma della giustizia, questa dovrebbe essere una priorità, la velocità dei processi. Si parlava di questa nuova legge sulla violenza sessuale che prevedeva processi per direttissima, non so finora quanti ne siano stati fatti, Giuseppe. Comunque, grazie Giuseppe, e adesso direi di andare a Milano con Angelo. Angelo, ci sei? Sì, sì. Eccoci. Ecco, volevo esprimere così, fare una considerazione sul fatto dell'invio delle truppe americane in Afghanistan. Si parlava di 14.000 uomini, almeno così mi pare di aver letto. Mi sembra che questa notizia sia passata leggermente un po' in sordina, non sia stato dato un risalto importante a questo fatto, anche perché la campagna elettorale di Obama, non voglio ricordare, che è stata fatta concentrata sulla pace, sul ritiro addirittura delle forze dall'Oriente, dall'estremo Medio Oriente, eccetera, eccetera. E quindi volevo sentire un po' il parere del giornalista di Cazzullo. Un'altra cosa che volevo dire è questa, è la presenza delle truppe militari italiane in questi paesi. Io, per quanto mi riguarda, per quello che penso, io sono fortemente contrario alla presenza italiana, anche perché sono fortemente convinto della autodeterminazione dei popoli, cioè penso che noi si stia portando un modello di società che loro non vogliono, che nessuno vuole, e che la parte più estremista di questo concetto stia combattendo questa nostra così tra virgolette invasione di società, di mentalità. Noi stiamo dando dei modelli di comportamento, dei modelli di civiltà che loro oggi come oggi nessuno vuole. Chiarissimo, ecco, Angelo. Volevo dare questo, solo fare questa considerazione. Ti ringrazio. Aldo Cazzullo. Non sono d'accordo con il signor Angelo quando dice che Obama ha fatto la campagna in nome della pace, ritiro dell'Oriente. Ha fatto una campagna contro la guerra in Iraq, sostenendo il ritiro delle truppe dell'Iraq, che peraltro era già stato avviato anche da Bush, ma anzi ha sostenuto che invece in Afghanistan bisogna restare e terminare il lavoro, cioè pacificare il paese. Non si tratta di imporre la nostra civiltà alla loro, si tratta di evitare che l'Afghanistan resti quello che era diventato, cioè la retrovia di Al-Qaeda e del terrorismo islamico anti-occidentale. Gli errori americani in Afghanistan sono talmente lunghi che ci vorremmo una trasmissione per elencarli. Prima l'appoggio ai Mujahideen in funzione antirussa, poi l'appoggio ai talebani in funzione filo-Pakistan anti-India. Ora è stata messa questa marionetta Karzai che si veste da Pashtun, ma viene dagli Stati Uniti e in qualche modo è stato rieletto con una serie di brogli che hanno dato fastidio agli americani stessi. Però in questo momento non c'è alternativa a Karzai. e quindi purtroppo io non vedo la questione in termini di invasione o di superiorità occidentale, la vedo una questione in termini di cercare di evitare che quel, soprattutto come dicevamo prima, la frontiera tra Afghanistan e Pakistan diventi il santuario del terrorismo internazionale. E visto che siamo sul piano internazionale, vorrei ricordarvi anche di questa campagna dell'ONU che si chiama Stand Up, Take Action, cioè alziamoci in piedi e cerchiamo di agire. Parlavamo prima anche della fame del mondo, no? Della FAO, che ha detto che sono oltre 1 miliardo le persone che soffrono la fame sul nostro pianeta. Bene, 12 artisti per questa campagna del millennio Italia dell'ONU, 12 artisti si sono attivati contro la povertà e i cambiamenti climatici, e Paola Turci, che sarà, ve lo ricordo, domani con me in trasmissione a Storielle dalle 19 alle 19.30, si racconterà un po' del suo ultimo album, della sua vita, eccetera, canta questa canzone di Bob Marley, Get Up, Stand Up, per lo spot appunto delle giornate di mobilitazione. Che cosa sono queste giornate? Da ieri, 16 ottobre, fino a domani, milioni di persone nel mondo, pensate, daranno vita a questa mobilitazione che si chiama Stand Up 2009, e fanno questo semplice gesto di alzarsi in piedi e di stringere un nodo per chiedere, insomma, per ricordare ai governi di rispettare le promesse contro la povertà e i cambiamenti climatici, come si diceva prima con Aldo Cazzullo, e di raggiungere gli obiettivi del millennio. Sentiamolo a pochi secondi, se Paolo Corleoni dalla parte tecnica me la manda, questi 30 secondi, Paola Turci. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Oh, e adesso, prima della viabilità, giusto è proprio soltanto segnalare il titolo della tua notizia, Carmine da Napoli. Carmine? Pronto? Sì, siamo... Roberto, sono. Sì. Senti, Roberto, ti do di tu perché sei, so che ti piace dialogare in questo modo qua, perché sei una grossa dialogatrice. Senti, voglio un consiglio tuo, cioè un'opinione tua, sì. Del giornalista che presenta il tuo... Aldo Cazzullo, sì. Sì, vorrei sapere che merito più rispetto, il Presidente del Consiglio o il giudice magistrato? Perché bisogna fare una classifica. Visto che Canale 5 finalmente si sono decisi anche loro di fare un po' di shop contro questi signori, si sono dato tutta la pazza gioia. Palomara che dice che farà e dirà, vogliono andare dal Presidente della Repubblica, vogliono fare sciopero. Loro hanno due televisori, tranne zero. Hanno zero che fa tutti i giorni, non so, 6 puntate, tutte e 6 contro Berlusconi. Possibile che non c'hanno più un argomento da fare. Io mi pensavo che parlavano del segretario, non so chi era, quel comunista che voleva pigliare un killer per ammazzare Berlusconi, non se ne è parlato. Io non l'ho visto, ventenne, ho letto su un quotidiano che non se ne è parlato proprio di questo argomento. Cioè c'hanno due reti, tra Ballarò. Ma c'hanno chi intendi, Carmi, quando dici c'hanno, chi sono? Prego? Quando dici c'hanno, loro hanno due reti, chi sono? Cioè la sinistra c'ha due reti che hanno zero, Ballarò, mezz'ora e così via. Una volta che si è scagliato una rete, che fortunatamente speriamo che lo fanno tutte e tre, Canale 5, Rete 4, Italia 1, ma penso che non lo faranno perché sono un pochettino più corretti. Cioè vorrei sapere che loro hanno fatto venire il finimondo, cioè hanno filmato un magistrato per strada. A Berlusconi lo sono andato a vedere fino anche nel VATR quello che faceva. Carmine, grazie. Non ci sono più le mezze stagioni. Roberta Giordano con voi ancora pochi minuti, bisogna accelerare. Aldo Cazzullo sempre in linea, il mio opinionista estemporaneo di oggi, inviato del Corriere, che ha scritto l'Italia dei Noantri, come siamo diventati tutti meridionali. Aldo, riesce a rispondere proprio a flash a Carmine da Napoli, che dice merita più rispetto il Presidente del Consiglio o un giudice come Mesiano, che è stato ripreso e quindi è scoppiato lo scandalo spiato, mentre lui dice a volte fin nella toilette? Meritano rispetto tutte e due. Nell'intervento di Carmine mi ha colpito una cosa, quando parla appunto di anno zero appaltato alla sinistra. È certo che Santoro ha le sue idee, peraltro penso che Santoro danneggi molto più il PD del PDL, soprattutto perché anche proprio plasticamente il suo studio rappresenta l'Italia come divisa in due curve, quelli Berlusconi in manette e quelle Berlusconi beato. No, c'è una taglia di mezzo che può, secondo cui una cosa non è sbagliata perché la dice Berlusconi o non è giusta perché la dice Berlusconi, e questa taglia andrebbe sì rispettata e ascoltata di più anche da Santoro, che resta comunque nel suo genere bravissimo, perché sono 20 anni che comunque è al centro della scena. Adesso ci prendiamo proprio uno spazio in cui, a proposito delle mezze stagioni, insomma, vorremmo chiarire questo passaggio repentino, diciamo anche un po' irritante, di temperature così improvviso. La persona giusta dovrebbe essere già in linea. Colonnello Mario Giuliacci, con il tuo sforzo di sintesi estrema, dove siamo, dove andiamo a proposito di tempo? Ciao Roberta, ciao, tu hai già messo il dito sulla piaga, fino a 7-10 giorni fa ci lamentavamo, ma quando arriva, quando smetterà questo caldo? E fa troppo caldo, adesso che fa un po' di freddo tutti quanti mi chiedono quando smetterà il freddo, come dire che tutto sommato si stava bene quando stava peggio. Non siamo mai contenti del tempo che fa e io credo che non riuscirò mai a darvi il tempo che vorreste, quindi questo mi dispiace, però almeno il tempo che farà, quello proviamo a darlo, no? Allora, che possiamo dire? Questo fine settimana direi che vedrà metà dell'Italia con bel tempo, perché il nord Italia, a parte un po' di nuvole, eccetera, anche la Toscana, l'Umbria, direi vedranno il bel tempo. Sul resto d'Italia invece nuvole e anche piogge oggi, piogge nella giornata domani. Ma anche Abruzzo e Sicilia? Anche, ecco, soprattutto al sud, proprio anche sull'Abruzzo soprattutto e al sud. Purtroppo questo ci dispiace per il sud e per l'Abruzzo, perché sappiamo ancora le difficoltà dei terremotati, e ci dispiace per il sud perché temporali potrebbero essere oggi anche di forte intensità qua e là sulle regioni meridionali, quindi c'è sempre una situazione di apprensione, anche se non è detto che, anzi penso che non si verificheranno fenomeni di rilevanza, però comunque fatto sta che oggi e domani al sud, gran parte del sud e anche la Sardegna e il Medio Adriatico, soprattutto le Marche e l'Abruzzo, non vivranno certo condizioni di bel tempo. A questo aggiungiamo che seguiterà a fare freddo e vento fino a martedì. Ecco, fino poi scoppia l'estate di nuovo? Come? Scoppia l'estate di nuovo, colonnello? Poi da no, scoppia l'estate di nuovo, no, perché anche se le temperature dovessero rialzarsi anche di 5-6 gradi, potrebbe avvenire a cominciare mercoledì e domenica della e mercoledì e venerdì della prossima settimana, ma partendo da valori bassi, dice, invece di avere i 15-20 gradi come temperature massime di giorno come abbiamo adesso, raggiungeremo i 20-25, che sono le temperature più gradevoli che si possano immaginare, no? Benissimo. Quindi voglio dire, no, direi che è una buona notizia, sono estremamente d'accordo, caro colonnello Giuliacci, ecco, grazie. Insomma, dobbiamo abituarci qui in avanti, non botta il cerchio, non la botta. Ecco, cerchio bottissimo, ormai di moda da parecchi anni. Grazie carissimo colonnello Giuliacci, e comunque sia un solare fine settimana a te. Grazie anche a te Roberta, sempre simpaticissima e brava, un saluto a tutti i nostri vostri ascoltatori. Grazie colonnello. Allora, io avevo tantissime notizie e chiedo veramente scusa agli ascoltatori che magari vedono la linea cadere perché sono lì in attesa da un po', chiedo scusa, veramente sono tante, telefonate 800 24 0024, pochi minuti ancora, volevo parlare per esempio di questa ricerca sugli stipendi dei parlamentari italiani che sono tra i più pagati insieme agli inglesi in tutta Europa, prendono oltre 20.000 euro e poi c'è anche un sito curioso che ha deciso di fare della bellezza e dell'estetica un criterio di valutazione dei leader mondiali. Vediamo se lo ritrovo. Ecco, un sito è www.hottestheadsofstate, quindi capi di Stato, il sito dei capi di Stato più hot, più sexy, insomma. E pensate che al primo posto c'è Yulia Tymoshenko, ovviamente donne e uomini valutano che è la bionda prima ministra ucraina. A che posto sta Silvio Berlusconi? Lo volete sapere, visto che è il nostro Presidente del Consiglio? Solo al 65esimo posto, e pensate che prima di lui al 48esimo c'è Ahmadinejad, chi l'avrebbe mai detto. Giuseppe da Bari, riesci a dire la tua notizia, perdonami, in 24 sì, secondi pronto. Giuseppe, scusami, prego. Sì, buongiorno. No, nulla, soltanto due considerazioni, poi chiudo, poi mi rispondete in radio. Se riusciamo, sì, grazie. Sì, la prima è che notizia di ieri che l'Italia, o meglio l'ENI, si è aggiudicata uno dei più grandi pozzi di gas dell'Afghanistan. Ecco, mi pare che esportare democrazia renda e parecchio. Prima cosa. Seconda cosa, poi la legge, quella che non è passata al Parlamento. Sull'omofobia, dici? Di quella, ecco... guardi, d'accordo che è palese che non è, non credo che i gay siano una razza da proteggere, una specie da proteggere, ci mancherebbe, però guardi un po' se qualcuno cominciasse ad armarsi e a come si dice, potere del diritto della legittima difesa, cioè basterebbe farne fuori uno, ma lo dico così, guardi, come provocazione, e varrebbe come sempre per tutti. Grazie Giuseppe, ti ringrazio per la sintesi che devo chiedere anche alla mia ospite immancabile di ora. Ed è Valeria Della Valle che mi odierà prima o poi, ma Valeria, ciao Valeria, linguista della Sapienza ciao, di Roma. Ciao, non ti odierò mai. Grazie cara, sei estremamente buona. Valeria, ti volevo chiedere, allora, è uscito lo Zingarelli versione 2010 che lancia un SS per molti termini che ormai sono in estinzione. Io spero per esempio che presto sia in estinzione anche omofobia, così vuol dire che non ci dobbiamo più pensare, che tutto è appianato. Anche un, diciamo come tempo verbale, il congiuntivo in via d'estinzione. Mi fa piacere che tu hai scritto viva il congiuntivo insieme a Giuseppe Patota, come quando usarlo senza sbagliare. Ecco, allora parliamo di vari tipi di estinzione, mi pare di capire. Allora, per quello che riguarda le parole, sì, lodevole iniziativa quella dello Zingarelli. In realtà queste parole ci sono sempre state in tutti i vocabolari. Loro hanno messo un contrassegno, che è un fiorellino, proprio per segnalare parole il cui uso non muore, e speriamo che non muoia nei nostri scritti, e che soprattutto i giovani continuino a capire di che cosa si tratta, no? Il rischio era un po' quello, parole un po' desuete, di carattere arcaico, antiquato, che finiscono per essere totalmente dimenticate. Ecco, questa è l'iniziativa per farle rimanere più vive che mai, in un certo senso. E ecco, se vogliamo mettere in rapporto due ipotetiche estinzioni, ma solo ipotetiche, allora sì, c'è anche quella del congiuntivo, modo verbale, posso dire, molto amato dagli italiani, no? E allora, io lo amo moltissimo, libro, sì. Ecco, lo ami anche tu, credo che lo ami anche Cazzullo, e allora abbiamo scritto questo libro che ha un titolo che, ecco, proprio in sintesi, viva il congiuntivo, è un congiuntivo esortativo, e abbiamo fatto di tutto per spiegare nel libro come si deve usare, perché non è morto, eccetera eccetera, e nello stesso tempo è anche una esclamazione di plauso per un modo verbale che esprime, riesce a esprimere tante cose, quindi tutti voi vogliamo che continui a vivere. Evviva, ecco. Evviva il congiuntivo, lunga vita al congiuntivo. Grazie Valeria ecco. Della Valle. Ecco tutto, arrivederci. Ciao Valeria. E poi ringrazio naturalmente Guido Scotti, che ha preso tutte le vostre telefonate, e poi Paolo Corleone alla parte tecnica. Aldo Cazzullo, 20 secondi per fare una battuta di chiusura, sennò qui mi si apre la botola sotto la sedia e scompaio. No, mi unisco anch'io al grido di viva il congiuntivo, non perché abbiamo nostalgia del passato, no, però ci sono delle cose dell'Italia di oggi che non ci piacciono. Il libro finisce con un PS che si chiama La Speranza, e la speranza sono soprattutto le donne. Oh, in particolare mi sono divertito a citare le siciliane, non le cito adesso perché non c'è tempo, ma la Sicilia, isola maschia per eccellenza, oggi è governata, è animata e arricchita dal lavoro delle donne, e questa per me è la vera speranza dell'Italia di domani. Mi unisco alla tua speranza, grazie Aldo Cazzullo. Da Roberta Giordano, appuntamento prossimo sabato, intanto sereni orizzonti a tutti.